giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Avrebbe compiuto 19 anni in novembre, Marco Darè è morto con 3 coetanei in un incidente della strada in provincia di Treviso, abitava in una frazione di Caneva. A San Vito al Tagliamento gli artificieri fanno brillare uno dei più potenti ordigni trovati in zona della Seconda Guerra Mondiale, 500 kg di esplosivo trovati a Codroipo nei pressi del ponte sul Tagliamento. Grigliata di Ferragosto? No grazie, a meno che non sia in un giardino privato. Un'ordinanza regionale vieta i barbecue nelle zone a rischio incendi, consigli dei vigili del fuoco. In compenso, dopo 2 estati segnate dalle restrizioni anti-Covid, tornano i fuochi d'artificio anche se non dappertutto, spettacoli pirotecnici dopo le 23 a Grado e a Lignano. Non solo mare per Ferragosto, dallo Zoncolan sulle due ruote ai bagni nella Val Tramontina, alcune mete alternative sempre più battute dal turismo. Ma Ferragosto è anche un buon momento per fare visita ai musei, tanti quelli aperti oggi, dal Museo Archeologico di Aquileia alla Revoltella di Trieste, da Villa Manina Passariano fino a Casa Cavazzini di Udine. Le 8:31, buongiorno e buon Ferragosto da Alessandra Zigaina e Lorenzo Gerlinzoni. Il cielo è poco nuvoloso sulla regione, vediamo le temperature registrate alle 7. A Trieste 21,5 gradi, il mare è calmo con una temperatura di 23 gradi, Udine e Pordenone 18,5, Gorizia 18, Forni di Sopra 14, Tarvisio 13,5, Tolmezzo 18, Piancavallo 14,5, Sappada 11, Monte Lussari e Monte Zoncolan 12, Lignano 22, Grado 22,5. La temperatura del mare è di 24 gradi. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata odierna. Al mattino cielo poco nuvoloso, poi aumento della nuvolosità e dal pomeriggio saranno probabili locali piogge e qualche rovescio o temporale. Non si esclude che qualche temporale sia anche più forte. Soffierà vento da sud moderato. Domani di notte e prima mattina saranno rovesci o possibili rovesci o temporali residui, specie su coste e zone orientali. Mattinata schiarite, nel pomeriggio saranno possibili ulteriori annuvolamenti con qualche locale rovescio, venti e regime di brezza. Lutto a Stevenà, una frazione di Caneva, per la scomparsa di Marco Darè, aveva solo 18 anni, è morto con 3 coetanei in un incidente in provincia di Treviso. Avrebbe compiuto 19 anni a novembre Marco Darè, di Stevenà di Caneva, uno dei 4 giovani morti nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale in provincia di Treviso. Una comitiva di amici molto affiatati, coetanei, percorsi di scuola e lavoro diversi, ma facevano comitiva assieme. Vivevano in paesi limitrofi, un triangolo dai lati lunghi una manciata di chilometri. Daniele De Re e Giuliano Chellici erano di Cordignano, dove Marco si era recato in bici e dove aveva appuntamento. Daniele Ortolan, l'altra vittima, era di Orsago, il comune limitrofo, sede dell'azienda in cui faceva uno stage Marco, una ditta di macchine e attrezzature per l'industria, l'ecologia e l'agricoltura. Lo schianto poco dopo le 2 di notte, nella strada per andare a Godega di Sant'Urbano, sempre in provincia di Treviso. Marco Darè abitava con la madre, rimasta vedova 2 anni fa, e 2 fratelli più grandi. L'utilitaria ha sbandato su una curva, è uscita di strada, finendo contro un albero e infine ribaltandosi in un canale di scolo che costeggia la strada. 3 anni fa, un altro incidente nello stesso punto, in cui avevano perso la vita altri 2 diciottenni, uno di questi spirato all'ospedale Cattinara di Trieste. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Strade chiuse, famiglie evacuate dalle case, circolazione ferroviaria interrotta e qualche imprevisto nei pressi di Codroipo per la messa in sicurezza della zona, in pericolo per la presenza di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Con il brillamento nella cava Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, la bonifica del sito, si sono concluse le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta a Codroipo lo scorso 8 agosto sotto il ponte della Delizia. Le operazioni erano cominciate alle 7:30 con un briefing operativo tra tutte le forze in campo e la chiusura delle strade per chi proveniva da Udine e Pordenone. 22 le persone evacuate dalle abitazioni vicine e vietata la circolazione circolazione ferroviaria per il tempo necessario al despolettamento e messa in sicurezza dell'ordigno. Il traffico ferroviario ha potuto riprendere normalmente già alle 9 del mattino, un'operazione complessa coordinata dalla Prefettura di Udine, che ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Friuli Venezia Giulia Strade e Protezione Civile. Mara Bolzon, Vice Capo di Gabinetto Prefettura di Udine. Si è trattato di un'operazione assolutamente complessa, sia l'importante carica esplosiva dell'ordigno, ma anche per la necessità proprio di organizzare questa imponente appunto macchina operativa in tempi record. Le operazioni di messa in sicurezza, trasporto, interramento e bonifica del sito sono state condotte dagli uomini del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine. Tenente colonnello Luca Giraudo, 3° Reggimento Genio Guastatori. Sicuramente l'operazione più delicata è l'inertizzazione dell'ordigno. Praticamente consiste nel eliminare, quindi separare le spolette dal corpo principale della bomba. Una bomba d'aereo contenente circa 500 kg di esplosivo di fabbricazione americana, la più grande finora ritrovata, del peso di oltre una tonnellata, un dispositivo di sicurezza che ha funzionato alla perfezione, anche quando il conto alla rovescia per alcune intrusioni nella zona rossa è stato interrotto e le persone immediatamente individuate con un drone e allontanate. Sambito al tagliamento, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Una donna di San Vito al Tagliamento di 31 anni è rimasta ferita ieri sera intorno alle 20 dopo un volo in parete mentre arrampicava, prima incordata, nella falesia della Val Colvera. Stava risalendo una via assicurata dal basso quando ha perso la presa ed è caduta sbattendo contro la parete rocciosa. Il volo è stato bloccato dall'ultimo chiodo presente lungo la via di salita nel quale aveva passato la corda. Con un trauma cranico e una ferita alla nuca è stata calata a terra da chi le reggeva la corda e, raggiunta dal soccorso alpino ambulanza, è stata condotta in ospedale. Incendio a Udine ieri sera intorno alle 20 in via di Giusto. È scoppiato partendo, pare, da un condizionatore. In casa non c'era nessuno. Le fiamme sono state domate in un'ora e mezza, ma ora l'appartamento è inagibile. La grigliata di Ferragosto è ormai considerata un grande classico, tanto che una indagine condotta dalla Coldiretti ha rilevato che ben 2 famiglie su 3 nel 2018, dunque ben prima del Covid, aveva partecipato a un barbecue il 15 agosto al mare, in montagna o in campagna. È finita l'emergenza sanitaria, ma ora ce n'è un'altra, quella degli incendi, che ha indotto la regione a vietare l'accensione di fuochi e l'utilizzo di griglie a fiamma viva nelle zone più a rischio. Sentiamo da Valmore Venturini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine dove si applica questo divieto e quali precauzioni adottare per prevenire nuovi roghi. La normativa è un decreto della regione che vieta l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco in quelle che sono considerate zone a rischio, quindi tutta la zona pedemontana e montana, Lignano Sabbiadoro, la zona carsica e la provincia di Trieste. Sono vietate l'accensione di fuochi, fuochi pirotecnici e anche l'utilizzo di qualsiasi apparecchio a fiamma libera. Quindi sono vietate per esempio anche le grigliate, quelle fatte almeno con fuochi che vengono accesi a fiamma viva? Esatto, sono vietate anche le grigliate e quindi l'utilizzo di apparecchi alimentati ad esempio a gas con bombole di CPL. Si tratta di un'ordinanza che forse non farà piacere a tutti nella giornata di Ferragosto, ma che è motivata dalla situazione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in quest'estate torrida e secca. Esatto, l'ordinanza è stata emessa il 21 luglio e quindi tiene conto ovviamente delle condizioni meteorologiche che hanno portato a una disidratazione di tutta la vegetazione e conseguentemente, come ben noto, gli incendi che si sono verificati hanno rappresentato un elemento di rischio e quindi dobbiamo assolutamente evitare qualsiasi possibile fonte di accensione. È ovvio che noi vigili del fuoco, al di là di quella che può essere la perimetrazione, possiamo anche raccomandare di estendere tale divieto anche alle altre zone. Ovviamente vi sono sia nei campeggi oppure vi sono anche delle aree appositamente attrezzate dove l'utilizzo di questi apparecchi può essere consentito. Per coloro che invece avranno l'occasione di accendere dei fuochi, fare delle grigliate con fiamma viva, quali raccomandazioni? Innanzitutto c'è quello di utilizzare questi apparecchi in aree dove non vi è vegetazione secca che può costituire pericolo di incendio. Se è possibile avere in prossimità anche un estintore portatile, ecco la cosa migliore. e a riprova dell'utilità di questi divieti quanto accaduto sul Carso nelle prime ore di questa mattina. Quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Trieste e di Opicina insieme al Corpo Forestale sono dovute intervenire per spegnere un piccolo incendio boschivo a Padriciano che si è sviluppato da un falò acceso su un prato in violazione appunto di tutte le norme di cui abbiamo parlato, ad andare in fumo alcune centinaia di metri quadrati di sottobosco, però subito contenuti dai soccorritori. Le fiamme sono state domate e il rogo è stato spento. A breve saranno eseguiti tutti i rilievi per cercare di risalire all'identità dei responsabili. E allora niente grigliate, o almeno poche, a Ferragosto, ma dopo due estati segnate dalle restrizioni anti-Covid che non avevano permesso lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici, tornano i fuochi d'artificio, anche se non dappertutto. A Lignano Sabbiadoro tornano le luci e i colori dei fuochi d'artificio in riva al mare, piedi sulla sabbia di fronte alla Beach Arena sul lungomare Trieste, ma un ottimo punto di osservazione è anche la terrazza mare. Si inizia alle 23:30 questa sera e poi domani alla stessa ora si ripete col suggestivo spettacolo dell'incendio del mare davanti a Piazza Marcello d'Olivo. A Grado questa sera la magia dei fuochi artificiali sarà accompagnata dalla musica dal vivo, un vero e proprio spettacolo nello spettacolo che sarà ammirabile dalla spiaggia Git e dalla parte più ampia della passeggiata a mare, ma i fuochi dovrebbero essere visibili anche da più lontano. Lo spettacolo avrà inizio alle 23 e durerà per 18 minuti di pura meraviglia. Colori e luci anche nella notte di Sistiana a Porto Piccolo con i Technicolor Fireworks, i fuochi multicolori che illumineranno il borgo e il porticciolo a partire dalle 23. Non sono invece più in programma spettacoli pirotecnici a Trieste. Della stagione turistica delle località balneari abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. I turisti però non mancano, soprattutto quelli stranieri, e i numeri si stanno avvicinando a quelli pre-Covid. Ma non c'è solo il mare, in molti hanno scoperto alcune mete particolari, ad esempio nella Val Tramontina. Sentiamo. Fa anche piacere all'incontrare, insomma, della siccità che ha creato problemi in giro. Però insomma qui c'è la storia di Redona. Dalle basse acque del lago di Redona affiora persino l'antico mulino dell'Ottocento. Poco oltre il borgo di Bovada è completamente riemerso. Un capolavoro, io comunque conosco la zona, ero già stata e abbiamo fatto una bella camminata. L'acqua non manca invece alle vicine pozze smeraldine che richiamano in Val Tramontina turisti attratti dalla bellezza selvaggia della natura, dalle molte possibilità di escursioni e quest'anno anche da un ricco calendario di eventi proposto dai tre comuni della Valmeduna. Come avete saputo di questo posto? Tramite amici. Un amico che è venuto qua e ha detto andiamo fino là, andiamo a vedere com'è. E non pensavo a trovare tutta questa gente qua. La natura è proprio selvaggia e dove si può stare benissimo. All'aria aperta, in mezzo alla natura. Da dove arrivate? Da Sannona di Piave. Apposta per venire qui alle Pozze Smeraldine? Eh sì, ci hanno parlato tutti quanti del posto, quindi... Merita. Bello, l'acqua bella calda. Siamo arrivati col camper giù in paese, poi abbiamo fatto una bella passeggiata, stiamo girando il Friuli che non conoscevamo, giorno stupendo. Tramonti di sopra, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Così dunque in Val Tramontina, ma per festeggiare il Ferragosto ci sono tante altre iniziative che si svolgono in regione alle quali è possibile partecipare, ve ne proponiamo una selezione. Restano per esempio aperti gli impianti di risalita nelle principali località turistiche della montagna friulana, a Piancavallo, Sappada, Forni di Sopra, Ravascletto Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea sono in funzioni seggiovie e telecabine, un'occasione per raggiungere senza troppa fatica boschi e rifugi. Mentre a Forni di Sopra torna la Ciaminada quest'anno alla 48esima edizione, la tradizionale corsa di Ferragosto che si svolge su sentieri e piste di fondovalle lungo due distanze, 8,2 km per gli adulti e 5,2 per bambini e ragazzi. Si parte alle 10 dalla piazza centrale. E a Lusevera, dopo 2 anni di stop per il Covid, ritorna la Sagra dell'Assunta, la più antica e partecipata festa tradizionale delle Valli del Torre. Questa mattina la marcia non competitiva Camminiamo Insieme e poi per tutta la giornata spettacoli per grandi e piccini e la sera musica e danze tradizionali. A Muggia invece gran finale del Carnevale estivo in piazzale Caliterna. Si inizia alle 18 con concerti, spettacoli di musica e cabaret, la ristorazione in riva al mare con prodotti ittici locali. Abbiamo già citato lo Zoncolan, che non è dunque solo una località invernale. Dopo diverse edizioni del Giro d'Italia, lo Zoncolan è frequentatissimo ormai da tanti cicloturisti che arrivano sia dal versante di Ovaro sia da quello di Sutrio. Per un cicloturista affrontare almeno una volta nella vita la salita al Monte Zoncolan è una di quelle cose che lasciano il segno per la difficoltà legata alle pendenze, soprattutto se affrontata dal versante di Ovaro. Dal 2003 è una delle tappe più faticose e affascinanti del Giro d'Italia e da allora ogni estate sono circa 20.000 coloro che sulle due ruote provano a salire sino alla vetta per poi farsi una foto o un selfie accanto al monumento del ciclista scalatore. Una vera e propria impresa con oltre 1.200 metri di dislivello e una pendenza media dell'11%. Capisco perché è famosa, è stata abbastanza dura, diciamo. Non è semplice, specie dopo i 50 è un altro spirito ancora. Je viens de Belgique. Vengo dal Belgio e ho sentito parlare dello Zoncolan al Giro d'Italia, è una salita mitica. Da Eddy Merckx in poi noi in Belgio abbiamo avuto sempre grandi campioni e ho fatto questa salita 2 volte in una settimana. E sempre più spesso gli appassionati si fanno accompagnare delle guide cicloturistiche affiliate alla Federciclismo Italiana. Silvio Ortis, guida federale. Sono delle figure che aiutano e supportano gli appassionati, più esperti o meno, a conoscere tutte le caratteristiche e valenze che il territorio ha. E volano le presenze turistiche sullo Zoncolan durante l'estate per la gioia degli operatori. Laura Nodali, albergatrice. Secondo me un 50% lo possiamo aggiungere rispetto alle stagioni estive precedenti. Zoncolan, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E il giorno di Ferragosto è anche una splendida occasione per chi vuole immergersi nell'arte e nella cultura. Tanti musei aperti in tutta la regione. Ad Aquileia c'è l'apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale, con visite dalle 15 alle 19, alla scoperta dei tesori recuperati in oltre 2 secoli di scavi, ma soprattutto alla scoperta dell'antica metropoli romana e della sua vita quotidiana. Sono poi aperti al pubblico i siti e le collezioni dell'Ente Regionale Patrimonio Culturale, Villa Manin a Passariano di Codroipo con la mostra Il Verde Alfabeto, a Trieste il Faro della Vittoria, a Gorizia il Palazzo Attem Spetzenstein, il Museo della Grande Guerra e il Museo della Moda e delle Arti Applicate, a Gradisca la collezione Spazzapan, a San Vito al Tagliamento il Museo della Vita Contadina, a Cavasso Nuovo il Museo dell'Emigrazione. A Trieste tra i siti visitabili oggi c'è il Museo Revoltella, ma anche il Castello di San Giusto, la Risiera di San Sabba, il Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, l'Orto Lapidario, il Museo di Antichità Winkelmann, il Museo Sartorio, quello teatrale Schmidl, quello della cultura istriana, fiumana e dalmata e il Museo di Storia Naturale, oltre che l'Orto Botanico. E a Udine sono visitabili i musei del Castello e Casa Cavazzini, a Pordenone il Civico Museo d'Arte Ricchieri e il Museo di Storia Naturale Zenari, mentre a Cividale alle 18 c'è la visita guidata gratuita alla collezione Famiglia De Marzis, allestita a Palazzo De Nordis con opere di Afro, Guidi e Toulouse-Lautrec. Grande attesa, siamo allo sport per la maratona femminile agli europei di Monaco di Baviera in Germania. 2 le atlete tricolori in gara, la veneziana Giovanna Epis e la plurimedagliata Anna Incerti, palermitana ma che vive a Udine. La fondista delle Fiamme Azzurre ha già vinto l'oro nella maratona 12 anni fa, nel 2010, agli europei di atletica leggera di Barcellona. La gara inizia alle 10.30. Alle 8.49 la rassegna stampa, l'apertura del piccolo è dedicata all'aumento degli sfratti, un allarme lanciato da Atere, sindacato degli inquilini e seguito allo sblocco post pandemia. Trieste, Gorizia, leggiamo nel catenaccio le maggiori criticità in regione. La fotonotizia è dedicata al traffico nel Golfo, particolarmente intenso negli ultimi tempi, come documenta il reportage di Elisa Coloni. In prima anche il richiamo a due pagine dedicate al tram, che non c'è più, il tram di Opicina, fermo da 6 anni, dal 16 agosto 2016, dopo un incidente con 7 feriti. E poi il richiamo al dibattito in corso in Consiglio Comunale sull'ipotesi proposta dalla maggioranza che vorrebbe mettere in pescheria, nella ex pescheria, una sorta di Italia in miniatura come quella di Rimini. Le opposizioni bocciano l'idea come vecchia e banale. E ancora, per la cronaca, rissa in via Oriani a colpi di bottiglie, 3 denunciati. Dal piccolo di Gorizia, il richiamo ad un tour tra monumenti e targhe della città di Gorizia, il crollo delle vendite di benzina e gasolio che, ci dice il quotidiano, non è stato frenato dal fatto che ora conviene fare il pieno in Italia piuttosto che in Slovenia, e poi notte bianca a grado con locali aperti fino alle 3 di mattina, e infine cani da tutta Europa per la gara di bellezza ospitata a Gradisca. Infine, per la cultura, sbarca a Venezia la mostra del cinema, il primo film girato in Val Rosandra dalla regista triestina Margherita Panizzon. Il Messaggero Veneto titola sulla sanità, medici di famiglia sempre presenti, è inattuabile, dicono i sindacati di categoria che criticano il piano del Ministero, manca personale, in regione ci sono 114 zone scoperte, nelle pagine interne troviamo ampio spazio per la tragedia dei 4 giovanissimi morti in uno schianto a Godega di Sant'Urbano, uno dei quali di Caneva, Marco Darè, uno degli amici morti con lui nell'incidente, Daniele Ortolan, studiava a Pordenone. La fotonotizia in prima pagina raffigura il momento dell'esplosione della bomba della seconda guerra fatta brillare nel greto del Tagliamento. Il capocronaca di Udine, dedicato a chi passa questa giornata di Ferragosto in città, a Lignano viene costituito un centro operativo contro i roghi, e poi sul dorso di Pordenone il titolo di apertura e la fotonotizia dedicati ancora all'incidente mortale. Il capocronaca si occupa dei primi cantieri in centro che chiudono e Pordenone diventa più a misura di disabile. Il Gazzettino apre la prima pagina dell'inserto dedicato al Friuli, al disinnesco della bomba. Titolo: boato sul Tagliamento, esplosa la bomba d'aereo. Sotto: ARPA a caccia di farmaci nell'acqua. Trovate microsostanze di antitumorali e antipiretici. La direttrice Anna Luttmann dice: presto nuovi strumenti per controllare. E ancora, strage di Ferragosto, morti 4 ragazzi, salute, diabete in aumento, l'allarme dei medici dopo la pandemia. Per lo sport, Udinese in affanno e Udoge a Londra. Il friulano Moro vince un bronzo europeo. Basket a 2, Old Wild West e Gesteco è l'ora del raduno. Infine alcuni spettacoli per Carni Armonie, c'è il concerto della 1000 Streets Orchestra, la esplosiva big band del Friuli Venezia Giulia su musiche del compositore triestino Romano Borsatti, alle 18 al Parco del Polo Museale di Cave del Predil nella foresta di Tarvisio. Al Castello di San Giusto, concerto tributo agli immortali Pink Floyd con la band Big One, inizia alle 21. In serata Cividale, in piazza Foro Giulio Cesare, il concerto finale Rhapsody in Blue degli incontri di musica da camera con il grande pianista Anthony Hewitt. E per i più piccoli e le loro famiglie, 2 spettacoli promossi da Orto Teatro, la fiaba friulana 7 paia di scarpe di ferro nel cortile di Palazzo Centi a Barcis alle 17 e l'uccellino, la gallinella e il cane nel cortile della parrocchia di Sant'Ilario e Taziano a Torre di Pordenone con inizio alle 21. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaine e Lorenzo Gerlinzoni. In regia per la parte tecnica Federico Comar. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora un buon Ferragosto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.